Ecco, invito tutti ad avvicinarsi, a sedersi, a prendere posto davanti al palco, perché stiamo per iniziare il dibattito sul futuro, sull'area dell'ex macello, oggi di Manesimo, il laboratorio culturale che vogliamo. Grazie. Darei la parola a Francesco. A Francesco Piva. Vediamo un attimo che prego. Gente. Sì, beh, noi dobbiamo iniziare perché sennò. Sì. Io intanto ti lascio il microfono, quando vuoi inizi. È già acceso. Allora, possiamo cominciare. Dovete scusare, la mia voce non è molto adatta a fare conferenze, ma purtroppo devo tenermela. L'ex macello è uno strano meccanismo. In una città che non prevedeva assolutamente di avere un centro culturale legato al concetto di libertà assoluta dell'informazione. E bene o male l'ha dovuto subire. Abbiamo avuto vita estremamente dura e difficile, forse sì, abbiamo la pelle dura abbastanza e quindi siamo riusciti a sopravvivere 35 anni di successi notevolissimi, ma anche di angherie notevolissime, e abbiamo capito moltissime cose. Però in questi 35 anni il meccanismo sociale della città, del nostro paese, dell'Europa, del globale, del mondo, si sviluppava con certe punte, con certe velocità, con certe dinamiche. Ci troviamo da qualche anno, direi uno o due anni, di fronte a meccanismi con dinamiche molto più rapide di quelle di 30 anni fa. La rapidità è legata ai meccanismi di informazione che 30 anni fa progredivano lentamente, diciamo non per passaparola ma con molta lentezza, e venivano diffusi in aree abbastanza definite. Attualmente, con il larghissimo impiego di internet, anche in paesi che hanno grosse difficoltà economiche, vediamo l'Africa mediterranea per esempio, come ha sviluppato il senso di partecipazione pubblica su fatti gravissimi che c'erano anche tanti anni fa, però questa volta contemporaneamente in tante città si sono sorti meccanismi di risposta istintiva più che altro a queste problematiche. Dobbiamo prevedere quindi per il futuro della carta degli strumenti di lavoro estremamente snelli ed agili. Non sarà più possibile essere tranquilli nella propria casa, nel proprio orticello, dire io lavoro bene, chi vuole imparare viene da noi e il problema è risolto. Dovremo giustificare la nostra presenza in questo spazio, che è uno spazio in cui la CLAC è stata fondamentale per poterlo salvare. Sarebbe stato le villette dei clinici o al massimo il garage, il deposito auto dell'ospedale. Ma adesso dovremo confrontare con tematiche legate al futuro dei giovani. Da noi sono venuti in 35 anni circa 600.000 ragazzi con le varie classi. Con il nuovo planetario abbiamo un magnete che attira forse 100.000 ragazzi all'anno da solo, una dimensione analoga. Quindi abbiamo da una parte una forte possibilità di scambio e di confronto con i giovani del Veneto, dall'altra parte abbiamo i meccanismi che si sviluppano rapidamente e dobbiamo essere in grado di trattare argomenti molto complessi in maniera chiara e inequivocabile, non in maniera parziale e limitata come è la visione di parte di una speranza politica, di una speranza religiosa, di una speranza speranza economica, ma che vede soltanto il proprio lato dell'aspetto globale. Questo è un invito alla CLAC, perché è una delle poche strutture, a Venezia sono convinti che non se ne siano addirittura, che siamo isolati, delle poche strutture che ci possono essere in una nazione come la nostra, che possono rispondere con elasticità a una domanda sempre più elastica, sempre più complessa, sempre più estremamente rilevante per il futuro dei giovani. Quando i ragazzi ti chiedono, voi parlate tanto di cultura scientifica, d'accordo, benissimo, avete fatto 10.000 presenze in un mese, cioè, sperimentando, è stato un successo enorme, ma vale la pena studiare? Che tipo di risposta dovremmo modulare e dare ai ragazzi a seconda di come vanno le cose, per mantenere fondamentale il concetto della voglia di conoscenza, indipendentemente dal fatto che trovino lavoro o no. Cosa dovremmo fare? Che risposta dovremmo dare ai ragazzi per tenerli agganciati perlomeno a un punto di riferimento al quale si possono porre domande fuori delle risposte standard che non significano mai più niente? Noi ci troviamo in un paese che sta realizzando scelte culturali, economiche, tecniche, scientifiche, sanitarie, vecchie di 20-30 anni fa, con la stessa mentalità. Con la stessa mentalità che ci ha portato a una situazione di insostenibilità. Non sarà vita facile per una struttura come la CLAC, però se creiamo un meccanismo che abbia dentro di sé il potere di rispondere con una grande elasticità e chiarezza di concetti alle domande che ci verranno rivolte nel futuro, sarà l'operazione più preziosa che si potrà fare. Non sarà certamente il ruolo dell'abilità di un'associazione a trattare un argomento, ma sarà il ruolo di un complesso estremamente ricco di variabili che potrà rispondere adeguatamente, mi auguro, a migliorare le condizioni per affrontare il futuro. Vi chiedo scusa, ma termino per ora, mi riservo un secondo intervento magari alla fine. Grazie. Volevo solo brevemente presentare le persone che stanno prendendo parte al dibattito da quassù. Sono l'avvocato Bruna Rigotti, che è stato tra l'altro il primo segretario generale della CLAC, il professore Roberto Sanedigo, direttore del Planetario di Padova, Francesco Piva, il segretario generale della CLAC, e il professor Vittorio Del Piazza. Niente, io ridò comunque la parola al primo che vuole, a Bruno. Poi. Sì, come ti dicevo, ero qui più che altro per ascoltare, perché i miei rapporti con la comunità non sono attivi ed esistenti da molto tempo, quindi non ho alcuna presa diretta sui problemi, posso dire una parola di carattere un po' generale. Ma anzi, mi rifaccio a un discorso che si era fatto prima entrando, quando ci si chiedeva che significato potesse avere questo stemma, questo logo, che la comunità ha assunto 36 anni fa, esattamente questo labirinto che sta sulla... Ci siamo ricordati, e voglio ricordarlo anche qui, che il labirinto fu pensato e disegnato per la comunità da un caro amico che oggi non c'è più, che era un bravissimo designer, Preziosi, che appositamente ci disegnò questo attuale stemma, che rappresenta proprio un labirinto. Quindi allora ci si chiedeva, ma che significato può aver avuto questo labirinto nella mente di chi ce l'aveva preparato? Ecco, io credo che il significato fosse lo stesso che mi dà un'analogia, che mi suggerisce un'analogia con un altro grande labirinto, che è quello che sta nel pavimento della cattedrale di Chartres. E una delle interpretazioni che si dà di quel labirinto, che è molto vicino, no? È molto simile a questo, tanto che sembra che quello di Vistoli sia direttamente ispirato, e il senso esoterico fino a un certo punto era semplicemente che attraverso le strade di un difficile labirinto, che però contiene in sé una conduzione ad un obiettivo che sta al centro, fossero le strade della cultura, della conoscenza, ma non della cultura istituzionale, per così dire, non tanto della cultura, scusami Vittorio, della cultura accademica o universitaria, ma di una cultura affidata al fare, al lavoro, all'elaborazione anche della materialità, al laboratorio, e quindi a una conoscenza che diventa esperienza attraverso la sua pratica che raggiunge un obiettivo. Questo obiettivo poi, come è accennato in questa interpretazione, aveva nel labirinto anche la sua strada di ritorno, cioè ciascuno acquisisce un'esperienza attraverso un fare, attraverso una conoscenza, ne tocca i confini per lui possibili e poi li diffonde e li amplia all'interno della società in cui vive. Ora, io credo che la comunità dovesse e abbia risposto in qualche modo e voglia rispondere ancora tutt'oggi a un'idea di questo genere e a un significato di questo genere, proprio attraverso l'attività pratica, i laboratori, eccetera, e tutte le altre situazioni che compongono alcune regole sociali che mano a mano si vengono a capire e a anche talvolta affrontare, al fine di accrescere l'esperienza di ciascuno ed al fine di diffonderla da un certo punto di vista, che non è né l'uno né l'altro né l'altro ancora, ma è specifico. È il punto di vista del fare, il punto di vista di comprendere attraverso percorsi che non sono eterodiretti, ma che sono autodiretti, in questo caso particolarmente specificamente attraverso il grande tema dell'associazionismo libero e praticato. Non vorrei aggiungere altro. Per ora, poi però ti chiederemo di aggiungere altro. Beh, dico solo, aggiungo solo una cosa, noi siamo sul palco per motivi tecnici perché il microfono è qui, è bene, ma siccome non c'è nessuna differenza tra tutti noi, ovviamente quando avrete qualcosa da dire e ce lo segnalate venite qui sotto, vi passiamo il microfono. Grazie. Ecco, Roberto, Vittorio, non litigate. Ecco, allora, io posso dire che ho partecipato ai primi anni della nascita della CLAC e direi che potrei ricordare forse una prima sede che molti si sono dimenticati, l'ospedale di San Francesco, quando veniva ancora chiamato Palazzo Carraro. Ecco, c'è andata una stanzetta. Ecco. Poi per molto tempo ospiti gli Andreini nel laboratorio di sociologia, il professor Acquaviva. E un giorno siamo capitati qua, proprio io e Francesco, e era appena andata via ufficialmente la macellazione, anzi diciamo pure che l'abbiamo fatta andare via noi chiamando i carabinieri, perché le condizioni igieniche di quello che succedeva qua dentro è inimmaginabile. Io basti dire che i ganci che vedete sono stati realizzati insieme all'edificio nel 1906-1907, quando gli animali macellati avevano una certa stazza, quelli invece degli anni 70, quando poi è cessata la macellazione qui dentro, i quarti degli animali toccavano terra, ecco, c'erano carogne, insomma il discorso è finito. Quel giorno siamo entrati, abbiamo trovato la porta aperta e da quel momento lì diciamo siamo entrati e qui dentro si sono preceduta moltissime. La porta si è aperta il sindaco Merlin. Francesco sì. Mi ricorda che c'è stato anche il sindaco Merlin che ci ha dato un po' una mano, comunque la porta era aperta, quella della, sulla strada. Ecco, io poi ho continuato la mia attività come Comitato Mura, il Comitato Mura è nato qui dentro, all'interno, proprio perché avevamo alcuni di noi gli interessi storici sulla città, e la prima sede del Comitato Mura è andata proprio sul ponte delle Gradelle, poi abbiamo girato un po' per la città, siamo ancora attivi, siamo adesso però al Bastione dell'Impossibile, dove abbiamo lì la sede, però la nostra sede, diciamo, morale ancora è rimasta questa. Francesco ha accennato che questa struttura ha corso dei rischi e li sta ancora correndo, forse minori in un tempo. Noi abbiamo contribuito, nel senso che tutta l'area, compreso il bastione, che è sormontato dal serbatoio del Macello, ha un vincolo paesaggistico. Quindi, oltre ai vincoli monumentali, visto che sono proprietà comunali, diciamo che hanno più di 50 anni, quindi riuscire a fare delle modifiche come qualcuno voleva fare, potremmo raccontare anche molti episodi in merito, questi sono allontanati. Rimane però un problema grave sempre di manutenzione e specialmente di conservazione delle parti che non sono state restaurate. Qui la cattedrale, che qualcuno chiama basilica, ed è giusto chiamarla basilica visto che ha tre navate, ha una sua storia del recupero grazie a degli interventi un po' sporadici dei vari sindaci che si sono succeduti nel tempo. Ecco, l'unica grande operazione è stata quella del planetario, che dopo sentirete meglio la descrizione, e anche altri interventi, che sono sempre però interventi sporadici, non programmati, cioè quindi ancora manca un progetto architettonico globale, anche se quello culturale non l'abbiamo fatto 30 anni fa e penso che sia ancora perfettamente valido. Se voi guardate uscendo c'è un lucido con recuperato, un reperto archeologico ormai, forse ho anche una copia originale di quello, con le indicazioni di quello che noi avevamo allora proposto. Quindi uno spazio aperto alla città con questa vocazione rivolta verso la scienza, ma scienza da divulgare ai giovani, ma specialmente per una, possiamo dire, un'educazione a essere persone attente alle problematiche civili. E l'impegno che ancora oggi è presente, penso che lo possa ben testimoniare. Ecco, l'ultima cosa che posso dire è che questa struttura, di cui sapevamo ben poco, ecco, ci aveva affascinato, perché la struttura, entrando in questo spazio, ancora oggi si ha questa sensazione di uno spazio congelato, uno spazio immobile. Ecco, l'ho studiato per la prima volta, poi ci sono stati molti lavori successivi, tesi di laurea, moltissime iniziative, e la storia è interessante, nel senso che è il momento in cui Padova comincia a fornirsi di servizi pubblici, e dove li piazza? Li piazza sulle mura, nel circuito delle mura, perché le mura sono state acquistate dal demanio dello Stato nel 1882. Quindi sono spazi che sono, diciamo, a prezzo basso, cioè, quindi sono aree che sono a disposizione. E infatti non solo qui abbiamo il macello, ma qua vicino abbiamo il canile comunale, e poi avevamo una straordinaria struttura che pochi conoscono, legata al primo sistema italiano di riciclaggio dell'immondizia per realizzare concime e per realizzare combustibile. Erano le celle Beccari, un brevetto di una ditta di Firenze, che sono state realizzate lungo le mura all'interno tra il Bastione Nuovo e il Castelnuovo, e sono state demolite proprio quando il comune ha abbandonato quest'area. Quindi anche in quel caso non la conoscevamo, quella struttura, è stata una perdita, come un'altra perdita, anche se poi ha avuto una destinazione molto felice, che ospita il Club Sumozzatori, non so se si chiama ancora così, con la camera iperbarica, quella era la fabbrica del ghiaccio, con macchinari straordinari, quindi avevamo in quest'area tutta una serie di testimonianze, di grande interesse. La zona poi esterna invece, l'Amniub, come sapete, della Golena, aveva realizzato negli anni 70 grandi capannoni che poi per fortuna sono stati eliminati. Quindi capite che, così, però mi fermo, non potrei andare avanti molto, parlando proprio di tutte le strutture che sono state realizzate nell'anello delle mura, all'interno e all'esterno, ma quest'area è veramente un'area di grande interesse e anche dal punto di vista storico-architettonico e tecnico è stata realizzata dall'architetto Peretti, che era l'ingegnere capo di Padova, che ha realizzato il Foro Boardi di Padova della Valle, ma anche il Ponte del Corso, l'Ufficio delle Poste, una serie di costruzioni, quindi con l'utilizzo del cemento armato. Ecco, qui abbiamo uno dei primi utilizzi del cemento armato qui in città. La tipologia è copiata dal mondo tedesco, ecco, e qui mi fermo, perché potete però capire che siamo di fronte a una struttura che va assolutamente conservata così com'è, e direi che l'utilizzo, anche se non costante, che viene fatto in questa sala, direi che diciamo automatico, lo spazio è uno spazio espositivo, e anche se altri pensavano di farne degli altri usi, come anche climatizzarlo, questa è una tettoia, cioè, quindi bisognerebbe cambiare completamente i sistemi di chiusura e di coibentazione del tetto. Quindi è una struttura bellissima, io poi qua dall'alto la godo di più, ecco, e con questo passo la parola al dicitore. Grazie. Mi scuso con Vittorio, perché a tutti ho dato un bel titolo, io non ho dato nessun titolo tra quello di professore, comunque perché confuso tra i vari titoli che potevo darti. Comunque avete capito, ha scritto molto sicuramente anche quest'area, questi edifici, avete capito. Ti faccio prima una domanda prima di passare. Il vincolo che hai ricordato prima, sbaglio, o è l'unico vincolo di tipo paesaggistico in Padova di quel tipo lì? Allora, i vincoli paesaggistici sono anni fa passati di competenza alla provincia, e adesso sarebbe da raccontare la storia, e dopo lunghi ragionamenti eccetera, i vincoli che sono legati alla legge ancora del 39, oggi codice urbano, ma comunque vincolo paesaggistico per il parco e per le strutture di architettura industriale, fermo restando quello che ho detto, che c'è il vincolo delle mura, c'è il vincolo dell'edificio comunale, eccetera, eccetera. Quindi è un vincolo che è stato emesso dalla commissione provinciale e la data a memoria non la ricordo, ma diciamo che anni 80. L'area, mi pare che ve l'ho mandato, forse sì, l'avete messo in rete, l'area è tutta questa, più una parte della Golena, cioè taglia, e, perché quello ha un altro vincolo, che è quello architettonico. L'altro vincolo riguarda i giardini dell'arena, come se avessero bisogno di un vincolo particolare. Però questo è molto importante, perché qualunque progetto che anche il Comune deve presentare passa attraverso questa commissione. Ecco, adesso non voglio mettermi in medagliente, però io sono andato in pensione il 1 ottobre, prima cosa che ho fatto, ho partecipato al concorso per diventare membro di questa commissione, sono nella commissione, quindi prima di costruire qualcosa di abnorme in questa area dovranno passare sul mio cadavere. Grazie, molto bene. Grazie. Roberto? Sarebbe sicuramente affascinante avere un po' più tempo e ascoltare ancora le moltissime cose che conoscono, sanno e possono raccontare su questo luogo, sull'importanza nella storia, nell'evoluzione della nostra città, che ha avuto sia Dal Piazza che Francesco Piva che Bruno Arigotti. Io aggiungo, cerco di aprire un altro spiraglio, rifacendomi all'immagine del labirinto che ha evocato Bruno prima e che compare nel logo della CLAC. Il labirinto come simbolo di un modo di essere, di un modo di procedere, di un mondo, quindi di una storia e forse anche di una prospettiva della CLAC, ma labirinto che labirinto? Il mondo in cui viviamo ci appare un labirinto inestricabile, ma se riflettiamo ci appare un labirinto il nostro vivere, le nostre emozioni, la conoscenza anche scientifica, ma non solo scientifica, della realtà che ognuno di noi realizza guardandosi intorno. E come orientarsi in questo labirinto, come trovare il centro, come trovare la via di uscita? Abbiamo già sentito, non dobbiamo perdere la curiosità, non dobbiamo perdere gli strumenti, non dobbiamo perdere il ricordo, non dobbiamo perdere il desiderio di futuro, il desiderio di progettare guardando in avanti le cose. Cioè, forse sono discorsi che si sentono fare poco in questi periodi, però è necessario non perdere di vista questa idea del labirinto e di come percorrerlo. Per rimanere alla conoscenza scientifica, io mi occupo di astronomia, cito Galileo che nomina proprio il labirinto in uno dei suoi scritti più famosi, il Sidereus Nuncius, dice che il cielo, l'universo, ma possiamo estenderlo alla realtà intera che ci circonda, di cui il cosmo è il simbolo quasi, no? Si riesce a conoscere, lui dice, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista razionale, affinando e capendo gli strumenti adatti, perché altrimenti rimaniamo smarriti in un oscuro labirinto, dice, e gli strumenti adatti per la scienza sono la matematica, dice lui. Oggi viviamo in un mondo molto più complesso in cui ci sono anche molti strumenti che passano attraverso l'intuizione, attraverso il mondo dell'irrazionale anche, ma non dobbiamo dimenticare gli strumenti scientifici, perché la scienza non è l'unica modalità che abbiamo noi umani dotati di intelligenza e di autocoscienza per conoscere il mondo che ci circonda, ma è uno strumento irrinunciabile come sono irrinunciabili anche gli altri strumenti non razionali. E quindi così non voglio dilungarmi oltre, riflettiamo, non smettiamo di riflettere sulla complessità delle cose, sulla necessità. Un altro flash che mi viene in mente riguarda, di cui non si sente mai parlare e di cui è necessario che parliamo ai nostri ragazzi, ai giovani, il desiderio innato che abbiamo dentro di bellezza, no? La bellezza che riscontriamo nella natura che ci circonda, che riscontriamo nei luoghi, che riscontriamo nelle realizzazioni fisiche, anche questo edificio, come diceva la piazza, no? È bello. Se lo guardiamo bene, perché è un concentrato di pensieri umani, è un concentrato di tensioni di cui non ci dobbiamo dimenticare. Quindi continuiamo a essere curiosi, continuiamo a cercare, continuiamo a guardare, a osservare la natura, a osservare e a cercare di capire i prodotti che l'uomo accumula nel tempo, no? E cogliamo in questi quella tensione irrinunciabile a cercare di capire, a cercare di conoscere, a cercare di guardare oltre nel futuro, e quel senso di emozione e di bellezza che è una delle cose portanti nell'animo umano, che è un tutt'uno, cioè non ci sono dentro al nostro animo il settore scientifico, il settore immaginario, il settore creativo, il settore irrazionale e così via. Noi siamo un tutt'uno, quello che facciamo, quello che pensiamo, quello che realizziamo è un coacervo di tutte queste cose messe insieme. Riappropriamoci di riflessioni intorno a questo che certamente ci porteranno avanti. Poi posso dire tu? Sì. Sì, sì, certo. Il professor Da Piazza ha espresso con molta chiarezza il concetto di vincolo che lo Stato italiano ha riconosciuto. Il Ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto l'operazione di salvataggio di quest'area. C'è un secondo vincolo molto importante, che è molto meno noto, che è il vincolo internazionale. Perché non per volontà nostra, ma in maniera direi del tutto fortuita, ci siamo trovati ad essere invitati nello sviluppo della nostra attività al primo congresso mondiale a Parigi sulle istituzioni private, non pubbliche, che avevano salvato monumenti. Ci hanno trovato con Travaux, l'associazione francese che si occupa di questo problema, e ci ha invitati. Li avevamo conosciuti vagamente facendo campi di lavoro all'estero, e questo è stato un po' un canale che si è mosso per conto suo. Ci siamo trovati invitati lì, lì abbiamo presentato una mostra su cosa significava salvare l'opera e come abbiamo proceduto a livello di informazione della popolazione, sostegno da parte della popolazione, sostegno da parte delle scuole, non sostegno coi capitali come si è abituati a lavorare. E questa caratteristica è stata vista dagli altri funzionari dell'UNESCO, perché la sede del convegno mondiale era nel palazzo dell'UNESCO. Ci hanno invitato a entrare direttamente nel sistema. Noi non potevamo entrare direttamente come comunità per le libere attività culturali, perché doveva essere una sezione dell'UNESCO che veniva riconosciuta localmente e poteva entrare. Abbiamo creato il Club UNESCO di Padova per questa ragione, e il Club UNESCO di Padova ha tirato dentro la CLAC nella binata che giustifica il vincolo nazionale italiano portato a livello internazionale, con l'aggiunta dell'attività tipica che la CLAC e il Club UNESCO fanno qui a Padova. Il Club UNESCO è stata una struttura che ha lavorato a livello internazionale unicamente. La CLAC ha lavorato a livello locale e regionale con molta profondità di incisione. Questo è stato apprezzato, abbiamo presentato in diversi convegni mondiali l'operazione. Nel 1993, nel 91 siamo stati riconosciuti tesoro del mondo, è stato applicato il vincolo. Nel 1993 abbiamo avuto l'invito a realizzare il primo convegno mondiale sull'argomento dei tesori del mondo, cioè su quella lista non del patrimonio, ma di elementi culturali di particolare valore sostenuti da tanti anni dalla popolazione. Questa è la binata del concetto del tesoro del mondo, e sono pochi in Europa. Ci siamo trovati con molti nomi che ormai erano tramontati, soprattutto per le guerre nei Balcani, eccetera, e ci siamo trovati ad avere affidata a Padova la segreteria mondiale della piccola operazione, ma preziosa, dei tesori del mondo. Siamo noi che abbiamo proposto quasi tutti gli attuali tesori del mondo. Se vedete il sito internet fwtunesco.org, vedete l'elenco, il ruolo e le caratteristiche e un po' anche il peso che abbiamo avuto in questa operazione. Questo ci ha dato una grande forza, però ci ha creato anche delle condizioni estremamente difficili da sostenere. Abbiamo sostenuto economicamente la produzione grazie al fatto che la Regione ci ha, dall'84 in poi, riconosciuto al massimo livello l'interesse regionale e quindi ci spettava un finanziamento che abbiamo avuto praticamente per 22 anni. Questo finanziamento ci ha permesso di fare una grande esperienza all'estero e praticamente abbiamo creato ogni anno uno o due nuovi tesori, sono stati dall'Accademia, dalla riunione del Convegno Mondiale Relativo riconosciuti. È finita la legge 5184 e avremmo dovuto presentare condizioni non di accesso libero ai finanziamenti, ma di accesso condizionato. Ci siamo richiusi a chiocciola e abbiamo lavorato con i mezzi che avevamo, con mille difficoltà. Però quel che è fondamentale osservare è che siamo passati da una fase di estremamente modesta economica, ma con grandi scelte, perché proprio in quella fase lì siamo riusciti a costringere il Comune a fare la prima fognatura di Padova. Proprio in quella fase lì abbiamo fatto il primo convegno sui musei civici. In quella fase lì abbiamo salvato l'ospedale di San Francesco Grande e tutta la sua documentazione, che adesso è in archivio di Stato ed è la base di quello che sarà, dopo 30 anni naturalmente con mille remore, il Museo di Storia della Medicina. Hanno terminato il restauro, fatto molto bene, con molta cura del palazzo. Adesso aspetta l'arredo e il lancio di questa struttura grazie a un'operazione coraggiosissima che abbiamo potuto fare noi assieme a un solo assessore della provincia contro tutti gli altri e abbiamo vinto. Il rapporto con l'estero è stato utilissimo perché abbiamo conosciuto gruppi tenaci, pieni di buona volontà e con lunga esperienza. Abbiamo un gruppo a Mosca che ha 150 anni di vita ed è tutto fatto da donne, che è un'esperienza meravigliosa sul campo sociale e di analisi storica. E abbiamo un gruppo ad Avignone che lavora sui metodi medievali di ricostruzione dei vecchi villaggi in pietra viva. Abbiamo un gruppo vicino a Lipsia che si occupa delle strutture agricole del 1600 e rilanciate come tecnica ottimale per farsi ville ecocompatibili, e li fanno scuola di costruzione di strutture per seconde case per l'estate, per esempio, o per l'inverno, che richiedono poco riscaldamento, nessun condizionamento e risolvono come risolvevano una volta, con grande eleganza, senza avere mezzi, il problema del caldo e del freddo. L'esperienza è stata preziosa anche per capire come in Germania, in Francia, in Polonia, si rispondeva ai problemi della difficoltà di trovare lavoro. In Germania la difficoltà di riunificare i giovani delle due parti divise, in cui una parte era abituata a lavorare pesantemente e con grande efficacia, l'altra parte era abituata a lavoricchiare. E la trasformazione è stata pilotata dall'esperienza del nostro gruppo di Aschersleben vicino a Lipsia, con un'esperienza tedesca ma estremamente efficace, e poi si è diffuso in tutte le altre scuole. Abbiamo imparato tantissime cose, creando quindi un patrimonio di documentazione, di esperienze, di rapporti che ci sarà molto utile in tutti i casi. Abbiamo creato, su invito di Silvio Segato, una raccolta che forse è la raccolta più grande italiana di storia dell'informatica. Stiamo restaurando il primo computer che è stato fatto a Valvo, è stato fatto in Italia, è stato fatto qui a Padova, e contiamo entro quest'anno di riuscire a poterlo rimettere in funzione. Abbiamo una biblioteca di oltre 45.000 volumi, non abbiamo più il bibliotecario. Dovremo rispondere, oltre agli impegni che ho annunciato nella prima parte del mio intervento, anche alla conservazione e alla salvaguardia di questo patrimonio e alla pubblica fruizione. Per questo stiamo studiando uno strumento economico che consenta, in parallelo a quello che fa la CRAC, chiamandolo sotto la voce di UNESCO, ovviamente che è molto più comodo da mille aspetti, in modo che possa essere il garante della stabilità in condizioni di difficilissima gestione economica. Questi sono gli obblighi che abbiamo. Credo che fare un dibattito, fare una discussione su questo sia uno strumento fondamentale, sarà ancora più fondamentale creare un laboratorio continuo che dibatta a seconda di come vanno le cose, il modo di vederle, in modo da poterle trasmettere ai giovani. Io mi auguro che questo sia un avvio di dibattito, non un dibattito finalizzato alla festa. Ecco, e ringrazio tutti quelli che avranno buona volontà e possibilità di partecipare. Lo faremo come blog, in rete, ovviamente, con gli strumenti che ormai sono essenziali, ma siamo convinti di poter trovare molta gente che ci darà sostegno e suggerimenti adeguati. Grazie. Senti, facciamo parlare il ragazzo, che è il più giovane che è venuto. Qui. Matteo? Sì. Vabbè, dopo di lui, sì. Okay. Prego, prego. Ah, scusa. Aggiungo solo qualche cosa a quello che si è detto, che implicitamente anche contiene delle cose che possono trovare una precisazione ancora maggiore. Quando si parlava poco fa delle attività delle associazioni, quello che andrebbe aggiunto è questo, è che è stato sempre riscontrato anche nella mentalità con cui nella comunità si è lavorato, almeno nel mio passato, che ricordo io. Scusate, se no la scusa. Scusa. Sì. Ecco, questo qualcosa in più è quello che io chiamo uno scenario, quasi teatrale. È vero. Ogni associazione ha le sue cose, ogni associazione la sua attività, ogni associazione il suo laboratorio, eccetera. Però lo sfondo, lo scenario, è una cultura che ha un carattere più generale, più ampio di quanto normalmente si ritiene e si chiama cultura all'interno delle attività più frequenti. Ed è una... io penso questo. Ed è... avere occhio a quell'idea forse più antropologica di cultura, che comprende sostanzialmente, si dovrebbe dire in molte parole, lo dico in una parola sola, la cultura dei comportamenti. I comportamenti non in loro modalità, particolarmente nella modalità della convivenza, sono espressione di cultura. E non è che nella comunità non ci sia questo sfondo, c'è sempre stato nella mentalità. Perché alla fin fine a questo ci devono portare un po' tutte le cose, a riconoscere una cultura della convivenza e a riuscire a viverla negli ambienti in cui non viviamo, noi viviamo. Gli esempi sono molti, direi che questo particolare momento culturale che viviamo, con le circostanze che ci circondano, ci devono un po' aiutare anche ad individuarli. Io credo che con questa accezione della parola cultura si debba avere presente che dietro le nostre spalle c'è la necessità immensa di una cultura della legalità. Cioè, nei comportamenti individuali, la cultura, quella tradizionale, deve servirci a migliorare la nostra cultura del vivere. La cultura della legalità è un fatto estremamente importante. Vi è vicino alla cultura della legalità, scusatemi, lo dico per questioni un po' professionali, vi è la cultura dell'amministrazione, della giustizia, che non è la stessa cosa, ma fa parte della cultura dei comportamenti di una società. Aggiungerei anche molti altri aspetti di questo modo molto generale di intendere la cultura, la condizione del malato, la condizione del carcerato, la condizione degli emarginati, eccetera, ma al di là di vecchie idee che vedevano in queste cose degli aspetti di filantropia. Noi stiamo parlando del riconoscimento dei diritti, diritto alla giustizia, diritto reciproco alla legalità, diritti del malato all'interno dell'ospedale, diritti del carcerato nello scontare la sua pena e in ogni altro momento, compreso quello di una sana possibilità di convivenza condominiale. Prima mi hanno chiesto sul vincolo, volevo aggiungere solo una cosa molto breve. Noi lo chiamiamo vincolo per comodità, ecco, ma invece dobbiamo chiamarlo strumento di tutela, quella è la sua la definizione esatta. Però ricordiamoci che non basta, cioè il fatto è una sicurezza in più, ma la vera tutela avviene attraverso la conoscenza. La conoscenza del manufatto, se parliamo di qualcosa di fisico, ma in generale la conoscenza della storia, qualcuno dice le nostre radici, ecco, non userei questo termine, non mi piace. E per cui la vera tutela la dobbiamo fare noi. Ecco, direi che queste iniziative sono quelle che portano alla vera tutela, quello che ha detto prima Francesco. È giustissimo, è implicito, cioè che questo non è un dibattito, questo è semplicemente un punto di tanti altri che dovranno susseguirsi, e direi che questo luogo lo rimarrà per molto tempo, perché direi che ormai è diventato un po' luogo deputato nel bene e nel male, in tutte le sue vicissitudini, e qualcuno si aspetta molto di più, ecco, però io direi che molti obiettivi sono stati raggiunti. Ricordo anche, è stato un po' accennato, che nei primi anni Francesco ha ricordato il salvataggio con 7 camion di documenti d'archivio che erano in un deposito a Tombolo che era crollato, che conteneva non solo gli atti di San Francesco, ma anche tutti gli atti del Tribunale del Salone, dell'Aquila, dell'Orso e non mi ricordo il terzo. E il discorso della battaglia fatta e vinta grazie a qualche raro politico a cui va molto riconosciuto quel ruolo di allora per l'ospedale San Francesco. Però qui vorrei chiudere, aprire una parentesi triste, se volete, negativa. Io come università poi ho seguito il progetto, anzi sono tra i firmatari del progetto definitivo. E il progetto formalmente è finita la parte esterna, quindi voi passando adesso lo vedete ed è un intervento molto interessante, ma la parte interna del chiostro non è stata realizzata e l'attuale presidente della provincia ha cassato il progetto sulla sponte mandando una lettera ai professionisti, cioè quindi siamo di fronte a delle operazioni bieche di persone che di cultura proprio non sanno nulla, non solo, ma scavalcando anche la struttura, se volete, debole, che era stata organizzata proprio per gestire il futuro museo della medicina, quindi con l'università, con il comune, con una fondazione di fatto. Ma purtroppo la vedo molto, molto dura. Almeno abbiamo salvato l'edificio, ecco, almeno questo siamo riusciti a fare. Bene. Francesco? Aggiungo anch'io qualcosa. Creare un museo di storia della medicina. Non è un'operazione legata, non deve essere un'operazione legata alle case farmaceutiche, deve essere un'operazione legata alla storia della medicina. Quando siamo trovati di aver salvato le lettere dei malati al Consiglio dei Dieci, che nel 500, nel 600, nel 700 protestavano, si faceva scrivere ovviamente dai frati che li assistevano, protestavano per le condizioni in cui vivevano. E io mi auguro che l'archivio di Stato riesca pian piano a metterle in rete, perché l'intenzione sarebbe quella. Sono di una bellezza straordinaria e ci rendono conto di cosa significa veramente la storia dell'ospedale, sembrano scritte adesso. Gli stessi problemi, le stesse tematiche, le stesse soluzioni, le stesse speranze. Quando un malato scrive, dice, il professore passa con tutta la fila dei suoi allievi, perché da 512 era la prima clinica d'Europa, se non del mondo, e quindi insegnavano davanti al malato. Bene. E quando passa per il corridoio, la nostra porta è aperta e guarda me, e io mi sento bene. Quanto aiutava quel malato di sentirsi bene per lo sguardo di fiducia che riceveva dal medico, e non avevano quasi niente per curare, soltanto le risorse naturali di uno essere che sapeva di avere la certezza di essere guardato favorevolmente. C'è del materiale fantastico che è stato salvato. Sarà difficile che ci sia sensibilità per trasformarlo in uno strumento di diffusione, ma museo no, troveremo la via per farlo conoscere, perché è troppo bello. Per nostra fortuna l'USL mi ha dato come collaboratrice una antropologa che ha una lunga esperienza in merito, una dipendente della USL e l'attuale presidenza, e con lei dobbiamo in autunno cominciare a spogliare queste lettere per cominciare a metterle in rete, con la collaborazione degli archivi di Stato ovviamente, perché tutto lì il materiale, ma sarà una gioia profonda vedere l'umanità attraverso le sofferenze, attraverso le speranze, le denunce, le dichiarazioni. Devo aggiungere ancora una piccola cosa. Apriamo quest'anno, e con questa mostra si apre un dibattito che continuerà in rete con altri strumenti sull'analisi del 150enario dello Stato italiano, visto dal punto di vista del movimento federalista. Bon Cattaneo era stato il leader dell'operazione federalista, è fallito completamente. Domanderemo l'opinione di tanti cittadini cosa sarebbe stato del nostro paese se Cattaneo avesse vinto. Non oso dire di più, perché i movimenti federalisti c'erano in tutta Europa a metà 800, sono stati stroncati tutti, più o meno brutalmente. Avrebbero potuto vincere. Adesso che abbiamo un'Europa nelle convulsioni delle piazze, e le avremo anche noi, dovremmo starci molto attenti, bene, sarà bene richiamare quei fallimenti, perché non avrebbero dovuto essere fallimenti. E questo è un aspetto nuovo di proposta culturale che intendiamo mandare avanti proprio come supporto parallelo alla domanda che faranno i giovani: cosa sarà di noi? E noi dobbiamo dire, vedete cos'è stato dei giovani di allora per aver fatto una scelta sbagliata? Cominciare dalla guerra di Crimea, andando avanti. E sarà un bel discorso da sostenere, da fare in maniera pulita. Ecco, adesso vorrei un momentino che uno giovane che è entrato da poco tempo con la sua associazione, è presente qui, l'associazione che riguarda la mente, parla il nome che è bellissimo il mente comune, vi desse la sua impressione di nuovo venuto. Ecco. Salve, mi chiamo Riccardo della Mente Comune. No, stia, tanto sarò brevissimo. Senti, sì. Troppo gentile. Sono felicissimo, insomma, di queste testimonianze che ci portano un po' il patrimonio di quello che è stato fino ad ora della CLAC. Devo ammettere che io, quando sono entrato la prima volta in questa struttura, ho proprio avuto la sensazione che qualcosa di grande, qualcosa di bello era già successo in passato. È un po' quella sensazione che si ha quando si entra in un bellissimo museo, no? E in più è iniziata a nascere in me un'altra emozione, cioè legata, forse anche per la mia età, no? Legata a dei sogni, no? Nel futuro. È una cosa che io auguro a tutti noi, amici della CLAC, e che è legata a questo sogno che è nato in me, è proprio che questa struttura si riempia sempre di più di quella che lei ha definito materiale intelligente, no? Materiale vivente, ovvero di persone che, attraversando questi posti, lasciano un segno e che diano davvero il senso della comunità, che è quello che tutti quanti qui stiamo promuovendo e stiamo portando avanti, ed è in controtendenza con quelle che sono, a mio avviso almeno, le tendenze, diciamo, sociali promosse da quegli stessi figuri che voi prima criticavate a livello politico e a livello decisionale. Penso che siamo tutti davanti a questa sfida, no? È una bellissima sfida, siamo anche fortunati in questo senso, perché è un sogno possibile. Ho avuto la sensazione che in questo posto, con le persone che ci sono, questo sia un sogno possibile, che possiamo essere davvero una comunità di persone pensanti e che decidono del proprio futuro e che non soltanto si piegano alla logica del valore della vita come valore dei soldi, ma come valore appunto della trasmissione della cultura. Noi come associazione, la mia associazione La Mente Comune, come ricordava prima Francesco in privato, mi ha ricordato che è un nome che nasce da Spinoza, un filosofo. Qual è il concetto di base? Osservando gli uccelli, mi permetto di rubarle questa chicca, no? Perché anche il senso è questo, trasmettere, no? Le conoscenze. Osservando il volo degli uccelli, a un certo punto si è reso conto Spinoza che cambiavano direzione a seconda di quello che intorno succedeva, ma non imitandosi l'uno con l'altro, ma per una scelta legata agli stimoli che c'erano davanti, alla situazione che avevano davanti. Cioè gli uccelli cambiavano contemporaneamente direzione di scatto, cambiando forma, proprio dando una forma sempre diversa allo storno, diciamo, no? Qual è il concetto di fondo? È che adesso siamo in una situazione in cui tutto ciò che guardiamo intorno ci fa pensare a un cambiamento storico ormai imminente, no? Un cambiamento in cui noi tutti insieme dobbiamo cambiare direzione, dobbiamo scegliere direzioni nuove, innovative. Questo meccanismo collettivo può essere sfruttato da altri per manipolare le scelte quotidiane fatte dalla maggior parte delle persone. Però può anche essere, se ognuno di noi affronta criticamente la vita, può essere anche un modo in cui insieme noi viriamo e andiamo verso nuovi orizzonti. Io spero che la CLAC diventi sempre di più il posto dove appunto chi riesce a volare alto sappia cambiare direzione insieme verso l'orizzonte giusto. Il dibattito si sta trasformando molto bene in una tempesta di cervelli. Allora, in questa tempesta io vorrei dire a Francesco di, e suppongo che questo sia già stato preso in considerazione, di essere molto attenti con l'attualizzazione delle condizioni di Cattaneo. Attenti perché sull'attualizzazione di queste concezioni, in maniera estremamente rude, si sono fatte, si stanno facendo e stanno galoppando tesi e teorie assolutamente strumentali e assolutamente, secondo me, estranee ad ogni ben intesa possibilità di direzione. Questa è un'attenzione che io raccomando moltissimo, che ho già detto, e l'ho già detto a voce. Poi sul merito della questione sarei più attento nel dire e manifestare una grande curiosità di che cosa sarebbe stato se. La storia, io credo, è mia opinione, che non sia fatta di questi secoli, ma io credo che le cose che sono vincenti nella storia abbiano almeno una parità di motivazioni di quelle che sono considerate perdenti, tanto più a tempi molto lontani, quando le situazioni di fondo e le situazioni storiche sono interamente cambiate, e quindi il pensare all'attualizzazione di alcune possibilità non attuate rappresenta, secondo me, soltanto ancora e sempre utopia illuministica. La mia scelta non parte dalla soluzione di un problema della metà dell'Ottocento. La mia scelta parte da tutto ciò che noi tutti insieme, in maniera che ha riguardato la totalità degli italiani, la totalità del nostro paese, la totalità delle donne, cioè in una forma assolutamente nuova che si contrapponeva al decadimento triste di una dittatura, e che abbiamo riattuato e voluto, e quindi ridato a noi una nascita che, al di là di ogni discussione, è diversa e nuova rispetto al passato, la nascita della Costituzione. Alla Costituzione io mi aggancio, alla Costituzione credo, alla Costituzione io difendo in tutte le sue possibilità, ma soprattutto nel senso profondo e nei significati profondi anche di unità e di inscindibilità, pur con tutte le possibilità di autonomia e di decentramento che la Costituzione stessa prevede, ci rileggeremo insieme l'articolo 5, e che secondo me contengono ancora moltissimo del nostro avvenire. Fai parlare. Sì, infatti abbiamo molto parlato, anche a me piace molto la direzione dove stiamo andando effettivamente, però qualcuno vuole intervenire? Adriano, aspetta che faccio passare il microfono. Io non aggiungerò molto a quello che è stato detto, che sicuramente è estremamente interessante per quanto riguarda soprattutto la genesi. A me incuriosisce tantissimo, io sono del gruppo speleologico, sono qui con il mio gruppo dall'81, quindi sono già parecchi anni che seguo la vita della CRAC. Una delle cose fondamentali che credo che sia necessario per in qualche maniera non perdere quel messaggio di innovazione che aveva avuto la CRAC, che ha la CRAC, dovrebbe continuare, secondo me, a portare avanti, è quella di continuare tenacemente a rendere questo posto un posto bello. Un posto bello, voglio dire, un posto che offre cose come questo, come queste che vedete, che secondo me sono essenziali, molto importanti per il crescimento dei rapporti con la cittadinanza, ma anche un posto in cui stiamo dentro noi stessi, cioè le strutture in cui utilizziamo, il parco. Ecco, una cosa che io ritengo sia importantissima, che dovrebbe tornare al centro dell'attenzione nostra, ma anche di tutti quelli che amano questo sito, è riprendere in mano il concetto per cui era nato il parco. Il parco, anche l'orto biologico, ovviamente, che era collegato, ma il parco è l'elemento caratterizzante, insieme con le mura, di quest'area. Elemento che il cittadino forse vorrebbe vedere più vicino, vorrebbe vedere anche raccontato, descritto e spiegato in maniera concreta. quindi la conoscenza che associata alla curiosità sarà, credo, l'unico mezzo che ci salverà alla fine di tutto quello che potrebbe capitarci. Dovrebbe essere in qualche maniera da noi stessi, da noi che siamo lì dentro, curato e riportato a quelle condizioni per cui era stato ideato e di cui io purtroppo mi lamento, non ne so ancora abbastanza, perché vorrei veramente che qualcuno mi raccontasse prima che chi si perda la memoria come e perché era nato quel papo, con quali caratteristiche, come era stato curato e sognato. E poi per il resto vorrei dire, riportando al titolo del dibattito che era Oasi di umanesimo, non se ne è parlato molto, questo titolo è stato in qualche maniera pensato da noi tutti qualche tempo fa in seguito ad alcune questioni che si erano state portate avanti attraverso iniziative del Comune che prospettavano una certa evoluzione in quest'area in un certo senso. E allora in qualche modo siamo stati costretti a immaginare che qui avevamo bisogno di creare un progetto, cioè di pensare a qualche cosa che potesse essere presentato e diciamo così messo davanti alle autorità o comunque a quelle persone che hanno, quelle istituzioni che hanno il compito di programmare il futuro della città, per dare a questa nostra presenza una giustificazione ulteriore, non fosse ma sufficiente quella soltanto di appartenere alla comunità per vivere l'attività culturale, ma di dare un progetto che potesse in qualche maniera dire a tutti qual è il nostro spirito, qual è il nostro fine, qual è la nostra idealità e soprattutto con quale concretezza di interventi vorremmo proporci ai cittadini, cosa vogliamo fare in quest'area, come vogliamo consistere. Ecco, Oasi di umanesimo, non soltanto quindi comunità, insieme condividiamo, ma qualche cosa che in qualche maniera rappresenta bene anche lo stato attuale diciamo, di quest'area, che è fondamentalmente purtroppo anche isolata, se vogliamo, è un po' a sé stante rispetto a un panorama che secondo me è abbastanza anche preoccupante e desertico, però associata a un umanismo, cioè a un concetto che è molto antico, che comunque rappresenta ancora molto bene un'idea di universalità, di intervento e di partecipazione umana che non ha confini e che appunto si ricollega al discorso di quelle due molle, di quelle due leve che saranno fondamentali per riuscire a farci uscire fuori da questa crisi, da questa situazione, la conoscenza e la curiosità. Basta, io mi fermo qui. Grazie. Un altro, Gesù, Matteo. Bravo, ti vedono sia loro che noi. Bravo. Sono stati molti stimoli da parte dei vari relatori. Ne raccolgo alcuni, stanno di uscire un pochino in ordine. Sabato pomeriggio sera e domenica pomeriggio. Innanzitutto il discorso sulla comunità, l'aspetto del comportamento. Io lo legherei anche perché alla dimensione della legalità, anche alla dimensione della responsabilità, nel senso che c'è un confine interno alla comunità. Quando si parla di comunità di persone, sono delle persone che sono all'interno della comunità e quando si parla di una comunità che è aperta, come vogliamo che sia quella della CLAC, c'è quindi una responsabilità anche verso l'esterno. Però ci deve essere una dimensione interna di cui noi siamo consapevoli. Questo passa attraverso il nostro comportamento, che è un riflesso della cultura che noi viviamo, di cui siamo anche attori. E qui nasce il piano della responsabilità. Quindi noi per poterci presentare, per poter rendere fruibile quest'area all'esterno, dobbiamo ritrovare tra noi, nei nostri comportamenti, la dimensione della responsabilità. Quindi riuscire, oltre che a essere delle associazioni che sono qui dentro, anche a recuperare quella che penso, almeno da quello che mi viene trasmesso da chi era qui agli esordi della CLAC, una dimensione di convivialità vera e propria, quindi non solo una convivenza, ma una convivialità, cioè ci deve piacere a tutti quanti stare qui, passare il nostro tempo qui. siamo noi però i protagonisti di questo, siamo noi che dobbiamo imparare, rimparare forse anche in casi, a stare bene insieme, in modo che il tempo che passiamo qui è sì frutto di quello che noi pensiamo che sia una responsabilità nostra verso l'esterno, ma che sia anche, che nasca innanzitutto dalla passione che ci anima, anche dal fatto di stare bene insieme. E, quindi il confine che dobbiamo riconoscere è quello appunto che passa tra il nostro interno, in cui le associazioni, noi singoli individui che ne facciamo parte, siamo persone che stanno bene insieme, quindi sono fieri di poter presentare quello che fanno all'esterno. Ecco, questo almeno da quello che sto vedendo, che sono veramente comune, quindi tra gli ultimi arrivati, credo che sia una dimensione su cui occorre lavorare un pochino. Dobbiamo recuperare i nostri rapporti anche tra noi, evidentemente. E, l'altra questione è quella della bellezza, che secondo me si aggancia all'aspetto dell'umanesimo. Noi dovremmo chiederci anche, se parliamo di umanesimo, di qual è la visione dell'uomo che vogliamo portare avanti attraverso l'utilizzo di questi spazi, quindi attraverso anche la forma che daremo alle attività che facciamo qui. Quindi qual è il tipo, diciamo, di uomo che noi vogliamo che esca fuori dalla virata che è necessaria per uscire da questo momento di crisi e di stallo, prima ancora, culturale, economico e sociale. La visione, secondo me, a mio giudizio, dell'uomo che potremmo portare avanti noi da qui è quella di un uomo che certo si occupa di cultura, ma lo fa anche attraverso la pratica, ancora una volta, e quindi attraverso anche il suo lavoro inteso come costruzione di mondo, non come un semplice rapporto economico, lavorativo, no? E quindi qui, su questa dimensione, di cose da fare ne abbiamo veramente, veramente tante. C'è tutto, come diceva anche Adriano, un parco da rivitalizzare, c'è l'orto botanico, ma c'è anche la possibilità di rendere più gradevole, un po' più estetico il parco che abbiamo, anche con degli arredi. C'è la possibilità di rendere fruibili altri spazi che adesso non sono utilizzati. Cioè, è vero, come diceva anche Francesco, il patrimonio della biblioteca, però qui sono d'accordo con te, Francesco, quando dici bisogna instaurare anche una struttura parallela in un certo senso, perché abbiamo visto fino adesso che le associazioni che animano la TAC non riescono a prendersi in carico anche di questa dimensione. Quindi questo deve essere un lavoro fatto in parallelo, perché sennò richiederebbe troppo tempo. Troppo tempo. E quindi l'augurio che faccio io a noi come comunità è quello di dedicare magari un pochino di tempo, un pochino di energia al riuscire a trovare una dimensione interna per migliorare il nostro modo di convivere qui, per rendere appunto possibile anche a chi viene da fuori riconoscere che questo è frutto di persone che qui, in primo luogo, quando se ne occupano, stanno loro bene. Loro stanno bene qui, noi stiamo bene qui e facciamo stare bene le persone che vengono fuori presentando quello che stiamo facendo, quello che abbiamo fatto. Grazie. Altri? Io mi ricordo ancora come si era, no? Che si chiamava Vignano. Qualche altra idea da mettere sul fuoco? Se no dico una cosa veloce io, dico due flash veloci anch'io. Adriano giustamente ha richiamato il titolo che abbiamo dato a questo incontro, dell'Oasi di Umanesimo, e che è un'espressione che è nata dopo un po' di riflessione, anche a seguito degli incontri della Commissione Cultura a cui abbiamo partecipato per tutto il 2010, a cui faceva riferimento Adriano, e ci siamo un po' guardati tra di noi dentro, abbiamo detto ma cosa siamo? Abbiamo pensato a cosa vuol dire essere nella CLAC, che è fatta di volontari, sembra incredibile, in questo tempo di denari e di altre di tantissimi altri interessi, un associazionismo che con le sue energie, con la sua forza, senza grossi aiuti dall'esterno o senza del tutto a volte aiuti dall'esterno, riesce a creare qualcosa al di là, come accennavano prima anche i nostri amici, al di là di quello che è l'interesse della propria associazione, l'interesse diretto immediato, che certamente è legittimo e importante, ma l'interesse per fare qualcosa insieme, qualcosa di più, questa terza dimensione o quarta o come volete, che mi ha sempre affascinato, che è il motivo per cui io personalmente ritengo che sia importante essere qui dentro. Mi meraviglio ogni volta appunto che siano delle associazioni a realizzare queste cose, a portare avanti quello che la CLAC ha portato avanti nel passato, ma che ancora ci sfruttiamo di portare avanti. Oasi di umanesimo, perché abbiamo detto questo cerchiamo di essere, in una città che per tanti aspetti sembra andare in una sua direzione, verso tante direzioni che a volte non capiamo, una città, una società in generale, non solo Padova ovviamente, ma parliamo, cerchiamo di rimettere al centro l'uomo, al centro di tutto quello che facciamo. Francesco tante volte, mi ricordo all'inizio quando siamo arrivati qui dentro, diceva questo non è un posto come un altro, questo è un luogo antropologico, come ricordava anche Bruno, l'uomo al centro. Per questo abbiamo detto Oasi di umanesimo, con poi i riferimenti anche ai comportamenti, alle attività che facciamo qui dentro, alle comunità di pratica, fare le cose assieme e scambiarci le informazioni. E riferimenti appunto che sono tra l'altro tutti presenti nei documenti che abbiamo presentato alla Commissione Cultura nel 2010 e che abbiamo pubblicato, vi dico per informazione, sul sito clacpd.org nella sezione documenti, quindi trovate anche questi riferimenti. Poi una seconda cosa velocissima, Francesco prima ha fatto riferimento all'operazione Amici dei Tesori del Mondo, che appunto nel 93-94 è stata affidata alla segreteria internazionale di questa operazione, è stata affidata dai Club UNESCO, dall'Associazione Mondiale dei Club UNESCO, è stata affidata alla CLAC e al Club UNESCO di Padova. Ecco, era presente anche il sindaco, insomma è stato fatto un convegno. E, volevo dire, quella non è una cosa vecchia, è una cosa che sicuramente dobbiamo riprendere in mano. Gli ultimi due tesori sono stati, se non ricordo male, proclamati nel 2003, che sono il sentiero, il parco dei sentieri interrotti o parco delle cave di Milano e il software libero come tesoro immateriale. Adesso per il parco delle cave faccio una brevissima storia per farvi vedere che queste cose sono vive e ancora le seguiamo. Il parco delle cave è un'esperienza simile per certi aspetti a quello che è stato fatto qui dentro. È una zona bellissima nell'area urbana di Milano, però un'area che adesso è un'area verde, dove prima c'erano, circa 30 anni fa, c'erano discariche. Un comitato di cittadini, in forte analogia insomma con quanto avete fatto voi a partire dal 73 circa, forte analogia con quanto è stato fatto qua, un comitato di cittadini ha fatto di tutto, ha lavorato veramente sodo per recuperarlo, ha trasformato queste discariche in un parco vero, con ci sono delle parti adesso di acqua, ci sono dei sentieri, e se non ricordo male lì dentro poi ci sono dei monumenti, una casa dove aveva soggiornato anche Petrarca, Cascina all'interno, adesso mi pare che sia esattamente anche dentro, che sia parte del Parco delle Cave, se no avrò detto un svarione, comunque lo stesso gruppo che segue il parco segue anche questi aspetti. Insomma, è diventato veramente un'oasi anche naturale. Ci ha contattati circa due anni fa uno dei responsabili insomma di questo gruppo di persone e ci ha detto: noi siamo quelli del tesoro del mondo che c'è sul sito fvt.unesco.org, siamo in pericolo, c'è un problema, abbiamo un grosso problema, perché adesso che noi abbiamo fatto tutto questo lavoro ci sono la solita lobby di costruttori che vuole costruire dei bellissimi condomini nuovi con vista parco, dove c'è un'area, insomma, a ridosso del parco. Noi non vorremmo che costruissero a ridosso del parco, perché vuol dire fare una strada, vuol dire insomma, minacciare quella che è la salute stessa del parco. Insomma, cerco di farla più breve possibile. Hanno scritto, loro seguono, c'è una rivista che si chiama Il Rile, che mi pare che sia un corso d'acqua di quelle parti, su cui loro hanno richiamato, attenzione, tra le tante cose per cui non dovreste fare questa cosa, noi siamo un tesoro del mondo, proclamato dall'Associazione Mondiale di Club UNESCO. Sono stati attaccati subito da questa lobby che aveva chiesto aiuto ad altri, credo del Club UNESCO di Roma, che hanno detto no, ma non è vero. Insomma, abbiamo dovuto fare una, come la CLAC, alcuni di noi, insomma, abbiamo fatto delle notti al computer cercando in internet tutta una serie di dati, perché non avevamo un riferimento scritto di del tesoro. E abbiamo risposto, insomma, abbiamo ribattuto, abbiamo dato delle informazioni a questi amici di Milano in modo che loro potessero replicare su questo giornale, richiamando, no, guarda, se vai sul sito dell'UNESCO, UNESCO.org, trovi questi documenti che testimoniano effettivamente tutta questa storia che... E quindi, insomma, abbiamo fatto una parte anche per salvare uno dei nostri tesori. Io dico nostri, i tesori del mondo, perché li sentiamo come cosa nostra, cosa difesa da noi. I tesori del mondo si caratterizzano, come ricordava prima Francesco, per una forte comunità locale che li sostiene. Il macello fu riconosciuto tesoro perché c'era una comunità locale che lo curava. Così il parco dei sentieri interrotti, cioè uno dei requisiti, insomma, tre requisiti mi pare che fossero, era questo, che ci fosse una comunità appunto locale che si occupava. Ecco, esatto, e Francesco ricorda, erano 20 anni che funzionava già quella comunità che ha lavorato appunto per creare questo parco dal discarico. Niente, io adesso mi fermo qui, dico solo che questo ovviamente bisogna riprendere i contatti anche con Parigi, con UNESCO, per richiamare che questa operazione sicuramente non è morta, non vuole morire, che ha una grande importanza, perché riesce a occuparsi anche di cose che non sono neanche tanto piccole comunque. Che non sono il patrimonio dell'umanità che viene decretato dai governi, però hanno una loro importanza e noi siamo qui per difendere anche questi aspetti. Sempre volontari, sempre associazioni, però ci crediamo. Ecco. Ma c'è una differenza. Prego, a Francesco. Ma c'è una piccola differenza, che la lista di circa 600 voci del patrimonio dell'umanità non ha mai la garanzia del sostegno pubblico. Sono località individuate per la loro bellezza, per la loro particolarità, da esperti, rimane un'individuazione quasi qualificata, ma manca il sostegno. Io conosco molto bene Francesco Bandarini, che è stato per tanti anni veneziano, ma è stato segretario della lista del patrimonio mondiale all'UNESCO a Parigi. Mi diceva, magari se avessimo avuto i luoghi difesi dalla gente, la maggior parte delle volte avevamo la gente contro. Questa è la piccola differenza tra le due liste, una piccola e una grande, d'accordo. Ne abbiamo perfino una piccolissima, ma estremamente interessante, dentro un oasi in Tunisia, costituita dai contadini che vivono lì da secoli, sopra c'è il deserto e dentro questo fossato lungo una 50 chilometri c'è acqua potabile e coltivano con metodi medievali, con un'agricoltura spettacolosa, senza conoscere niente dei principi, senza nessun additivo chimico. E per questa storicità io sono stato responsabile di questa scelta. La trovate nella lista. E sono persone favolose che si difendono contro la grossa industria petrochimica che porta via l'acqua praticamente nel Golfo della Libia. Bene. Bene. Qualche altro? Avete altre? Adesso vediamo quanto tempo abbiamo, comunque sì, beh, un po' di pausa la facciamo prima della maratona di lettura sull'Unità d'Italia che è programmata per le 20:30. Io chiedo scusa, ma avrei bisogno di andare a casa. Va bene. Perché non posso più restare. Ci vediamo domattina, vengo alle 8:30, 9. Ok, benissimo. Va bene, grazie. Grazie Francesco. Altri interventi? Altre cose? A posto. Va bene, vi ringrazio tutti, vi ringraziamo, tutti ci ringraziamo e se riusciamo a fare una cena veloce poi vediamo, c'è la maratona di lettura organizzata dal laboratorio. Grazie.